Lettera indirizzata agli italiani a Mogadiscio, così titola oggi Beldec, giornale in lingua somala di tendenza filo-ID. Un articolo di fuoco che spiega con nomi e particolari cosa ne pensi l'ex ministro dell'industria somalo dei rapporti tra l'Italia e il suo paese. Un primo attacco è per i giornalisti che offrirebbero agli italiani un'immagine falsata del paese. E poi pesanti accuse contro i politici italiani, da Craxi a De Michelis, passando per il capo del fondo di aiuti italiano, Francesco Forte. Il ministro continua la lettera e si chiede: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia? Quanti miliardi per certo ne sappiamo sono finiti in Somalia della popolazione? Sono finiti 5.000 miliardi, una roba così, ma soltanto in quegli anni lì, eh? Strada nel deserto, immersa nelle sabbie, una linea lunga e nera che si snoda fin dentro il cuore del continente, sulla faccia della terra, verso la fine del mondo. Assomiglia a una ferita sempre aperta, lunga e nera, infetta. Potresti navigare su questo interminabile fiume nero d'asfalto per una vita intera e non incontrare mai nessuno. Una vena scura, lunga e nera, sulla faccia della terra, verso la fine del mondo. Una leggenda racconta che quando gli angeli furono cacciati, alcuni di loro scesero sulla terra, disperdendosi nel mondo. Assunsero sembianze umane, attraversando le ere. Un potere occulto che avrebbe governato i nostri destini, che lentamente, inesorabilmente, avrebbe portato alla catastrofe totale, a distruggere ciò che Dio aveva creato, ciò che Dio amava. Questi demoni irretirono degli uomini, li abbagliarono con loro, insegnarono loro ad odiare altri uomini come loro, diedero loro delle armi che loro diedero ai bambini, e i signori della guerra portarono la violenza e la morte, gettando l'umanità e queste terre nel caos. Allora Dio li punì, lasciandoli a loro stessi, e non fece più piovere. I signori occulti allora si allearono fra di loro e decisero di utilizzare quella parte del pianeta abbandonato da Dio per farne un'immensa pattumiera che avrebbe stipato i mali della terra che loro stessi avevano generato. Così, dicono, nacque quella strada, dove sotto di essa sono nascoste e sepolte le vergogne degli stati, residui tossici e sostanze radioattive che inquinano, uccidono noi e questo nostro pianeta. Una linea lunga e nera sulla faccia della terra, verso la fine del mondo. Sei qui? Sapevo che saresti venuta. Non potevo mancare. Tu non manchi mai agli appuntamenti. È il mio lavoro. Un po' in ritardo, però. Troppo lavoro. Lo immagino. Si è svegliata? Non ancora, ma sta per farlo. Racconterà la verità? Perché non dovrebbe, è la sua storia. E la sua verità. E allora? Tu lo sai, ognuno racconta la propria, ma la verità non è mai una sola. Lo so, ma lei lo farà. Noi non dobbiamo giudicare, dobbiamo solo dare vita alle sue voci. Ora devo andare. Si comincia allora? Si comincia. Bebe moke nani abetio yo moko tikali na kati andako kolila kate mwana ya solda bebe moke nani abetio yo moko tikali na kati andako kolila kate mwana ya solda. Lila kate mwana ya solda. Non avere paura. Quegli spari, cos'è stato? Stai tranquilla, sei al sicuro. Quelle grida. I miei appunti. Qui sei al sicuro. Ma dove sono? Al sicuro. Sei venuta qui, scappavi da qualcosa. Probabilmente ti inseguivano. Forse ti sei persa. La porta era aperta, sei entrata, sconvolta e sola, con il terrore negli occhi. Ti sei accoccolata in un angolo senza parlare e ti sei addormentata. Forse per dimenticare, probabilmente per riposare. Sembravi molto stanca. Li hanno fatti a pezzi. Era solo un brutto sogno. Tieni questa infusa, ti farà stare bene. Grazie. Perché sei qui? È il mio lavoro. Sei un soldato? In un certo senso. Un dottore dei soldati? No, anche se il sangue non mi fa impressione. Dopo un po' ci si abitua con tutto quello che si vede. E ne hai viste molte di cose? Sì, molte. Belle o brutte? Ah, belle e brutte. Cosa stai facendo? Mi dipingo le mani. È un'usanza della nostra terra. Vuoi provare? Sì. È piacevole. È così calmo qui. Sono un reporter. Cos'è? Uno che parla con la gente. E tu sei qui per parlare alla gente? Sei una sora o qualcosa del genere? Sono una giornalista televisiva. Parlo alla gente per raccontare della tua gente, di quello che succede qui o da qualche altra parte. E racconto quello che succede a quella gente. E cosa racconti alla gente che ti ascolta di quella gente? Quello che vedo. Cerco di dare voce alle vostre voci, alle voci del mondo. E ci riesci? Ci provo. Avrai dei nemici. Qualcuno. Ma anche tanti amici. E non hai paura? Paura? Paura forse un po'. Questo è il mio mestiere. Un reporter in prima linea corre sempre qualche rischio per dire la verità. Combattiamo la nostra guerra e le armi che usiamo sono le parole. Le parole non possono uccidere. No, ma possono essere pericolose più delle spade se vengono indirizzate nel modo giusto. E questo chi lo decide? La nostra coscienza, la nostra etica e l'amore per la giustizia, il nostro senso del dovere per fare bene il proprio lavoro, fino in fondo. Deve essere difficile. Sì, sì lo è. Ti piace? È bellissimo, lo porterò con orgoglio. Ti proteggerà. Cosa fai? Qui sei al sicuro. Non ti allontanare. Verrà qualcuno. Ma ora devo andare. E dove vai? Anch'io ho il mio lavoro. Aspetta, non lasciarmi sola. Chi verrà? Chi è che verrà? Di notte Mogadiscio cambia aspetto. Le strade deserte, qualche raro pedone, le luci fioche di qualche lampada a gas. Non c'è elettricità se non quella dei generatori, e il buio è illuminato dai bengala spesso sparati. Nei piccoli locali lungo le strade la gente si riunisce, beve il chai e gioca a una specie di dama. Nessuno senza un motivo particolarmente valido passa da una zona all'altra. È un coprifuoco non dichiarato. Sì, è un coprifuoco non dichiarato. Voglio prendere degli appunti. Dunque, perfino andare ad una conferenza stampa con il coordinatore del Dipartimento di Stato americano in Somalia crea molti problemi. Il mezzo di trasporto, un blindato italiano, e l'albergo dista dalla conferenza solo 1 chilometro. Ma siamo a Mogadiscio Sud, controllata dai DID, e non è prudente muoversi senza scorta. Sì, e non è prudente muoversi senza scorta. E questo che articolo è? Ex ministro dei lavori pubblici Mogadiscio Nord. Nel cortile dell'edificio si accalca almeno 1 migliaio di persone. Sono qui, dice il colonnello Abukar, per organizzare il nuovo esercito della Somalia. Per il momento cercano di recuperare i nominativi di quei militari in servizio sotto Siad Barre, il tiranno deposto. Non hanno né armi né alloggi. Da 2 settimane arrivano da tutte le parti della Somalia e gli iscritti sarebbero già 20.000. Ad uno di questi uomini ho chiesto perché voleva arruolarsi. Per vivere, perché uno dovrebbe fare il militare. Vieni per lavoro, per vivere, perché non c'è altro lavoro. L'unico lavoro è uccidere. Aveva 50 anni. Nota bene. Ali Mahdi, ex presidente ad interim della Somalia, è stato il maggiore fautore tra i primi a richiedere l'intervento delle forze internazionali e soprattutto la presenza dell'Italia nel paese. Dunque, scrivere su Ali Mahdi riguardo attrito con tribù somale. Ok. Giornate di trattativa a Mogadiscio. Finalmente, è questo, vai. Al posto di blocco pasta, quell'italiano, nessuno è tranquillo. I militari, trincerati tra i blindati e i sacchetti di sabbia, aspettano. L'attesa rende tutto più difficile e c'è molta tensione. Poco lontano il pastificio, questo vecchio edificio conteso così aspramente. Un punto di vitale importanza per il collegamento con i contingenti fuori Mogadiscio. Per oggi è previsto che i militari italiani lo occupino, facendo andar via 60 di persone oppure cercando una coabitazione. La gente che abita intorno al pastificio dice che gli italiani sono come fratelli, che ormai vanno dimenticati i morti da una parte e dall'altra, quasi che vendetta sia ormai fatta. Più là si tiene una riunione di notabili, gente del quartiere, uomini della SNA. Discutono, vogliono far entrare i soldati italiani nel pastificio. Tenente, come sono i vostri rapporti con la popolazione? Generalmente ottimi. Infatti, come vede, vengono qua, ci chiedono l'acqua e noi non abbiamo difficoltà a dargliela. Molte donne, bambini, hanno piacere di stare vicino a noi. perché gli diamo sicurezza. Infatti la notte non c'è nessuno per le strade, perché c'è la presenza, direi con orgoglio, degli italiani. Ma esiste uno zoccolo duro, di quelli che non vogliono nessun accordo e accusano gli italiani di aver pagato chi ora li appoggia. La discussione dura a lungo. In una baracca poco distante, la padrona di un ristorante, distrutto e da poco ricostruito, dice che vuole la pace, ma che se ci fosse ancora la guerra, sarebbe la prima a combattere. Opinione generale a Mogadiscio è che ormai è guerra aperta, è guerra civile. Per Mogadiscio è stata ancora una giornata di sangue. Dal mattino la zona controllata dal generale Idid è stata martellata, prima dai missili lanciati dagli elicotteri americani e poi dalle mitragliatrici. Dal terrazzo dell'albergo dei giornalisti, il nostro albergo, abbiamo assistito a uno spettacolo di guerra. L'arrivo di alcuni mezzi militari fa degenerare la situazione e la sola vista dei distintivi dell'ONU scatena una tale rabbia. Inizia così una violenta sassaiola, dove un nostro operatore e due fotografi televisivi vengono coinvolti nello scontro. Ciò che è certo è che il clima in città è di estrema tensione, che il rancore per i bianchi è salito alle stelle, che anche la più piccola speranza di mediazione ormai è saltata. Morti tre somali, sarebbero una sessantina. Come in un macabro rituale, li hanno portati tra le mosche a malapena coperti di stracci, in mostra per le telecamere davanti al nostro albergo. Intanto noi all'interno piangevamo la morte di quattro nostri colleghi. Nessuno oggi a Mogadiscio può cantare vittoria. Tutti oggi aspettiamo domani. Li hanno fatti a pezzi. Allora? Com'è andato il suo giro turistico? Ma lei chi è? Come si permette? Io faccio il mio lavoro. Nessuno poteva immaginare quello che è successo. Lo so, stavo scherzando. Non se la prenda. Era solo una battuta. Ma lei ha visto quello che è successo? Li hanno fatti a pezzi. Lo so, è incredibile. Ma siamo in Africa. L'odio fra tribù ha radici profonde. È un fatto culturale, dovrebbe saperlo. È terribile. È l'Africa. Gli americani pensavano fosse una passeggiata sbarazzarsi di Edith. Invece quello che hanno ottenuto è stato solo colpire i civili. Io l'ammiro per come cerca di raccontare la verità, ma dovrebbe stare più attenta. Grazie per essermi venuta a cercare. Deve allontanare quei brutti ricordi dalla sua mente. Devo farlo? Beh, ora mi farà accompagnare in albergo. No. Come? Rimaniamo qui. E perché? Visto che dovremmo passare un po' di tempo insieme, magari ci possiamo iniziare a dare del tu. Non ne vedo il motivo, visto che sto per andarmene. Va bene, nessuno ti accompagnerà. Sarebbe capace di non accompagnarmi. Sicuro? Ma io non posso andare da sola. È troppo pericoloso. Ma davvero? Lo sa benissimo. Non so nemmeno dove siamo. O perlomeno, non esattamente. Io devo tornare in albergo. Mandare il servizio, fare il mio lavoro. Non posso restare qui. Non c'è altra scelta. C'è sempre un'altra scelta. Se lei non mi accompagna, deduco che non mi darà una scorta. Esatto, sono io la tua scorta. Me ne andrò da sola. Testarda. Come un mulo. E amante delle cause perse. Mamma, per favore. Ma che cazzo? Ma tu chi sei? Finalmente ci diamo del tu. Chi sei? Te l'ho detto, la tua scorta. Sono prigioniera. Se vuoi, tutti lo siamo. Cosa? Intrusi a noi stessi, stranieri. Prigionieri. Abbiamo una scorta filosofa. Ti ho portato un libro. Grazie. Devo dedurre che l'attesa sarà lunga. Forse, dipende se sarà necessario. Per cosa? Che sarà necessario? Perché sono qui? E dove sono? E tu chi sei? Non fai sempre tutte queste domande? È il mio mestiere fare domande, fin da quando avevo 13 anni. Andavo in una scuola pubblica a tempo pieno, terza media, e nel pomeriggio facevo lezione di giornalismo. Mi divertivo da matti. Mi avevano dato un microfono. Giravo per il quartiere e facevo domande alle persone. Mi piaceva parlare con la gente. Facevo delle domande semplici, da bambina di 13 anni. Fin da piccola ero molto curiosa. Volevo viaggiare, conoscere nuove culture. Oddio, ma perché ti dico questo? Touché. Cosa fai? Devo andare, qui sei al sicuro, non ti allontanare, verrà qualcuno. Aspetta, dove vai? Non puoi lasciarmi sola e non mi dire che tutti lo siamo. Ho altro lavoro da fare. Aspetta, chi verrà? Chi è che verrà? Qualcuno. Ma perché tutto si ripete in questo posto? Il libro. Pasolini. Ah, ma c'è dentro anche una fotografia. Oh no, questa sono io. Sono io a 13 anni con il microfono in mano. Io so i nomi dei responsabili. I responsabili della strage di Milano, di quella di Brescia e di Bologna. Io so il nome del gruppo dei potenti. Io so tutti quei nomi e i fatti di cui si sono resi colpevoli, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono uno che cerca di seguire tutto quello che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive e di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Io so perché sono uno che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere, dell'istinto del mio mestiere. Dunque, ah, ma c'è anche una dedica. Post scriptum. Sì, e voglio farlo bene fino in fondo per la gente, la verità e la giustizia. Sì, ma questa non è la mia calligrafia. Che figlio di puttana! Credo che questa scelle sia tuo. Grazie! Credevo di averlo perso. Me l'aveva regalato una mia amica, Fadima, la prima volta che venni qui. Da allora ogni volta che vengo in Somalia lo porto sempre con me. È un po'... sì, diciamo che è il mio portafortuna. Sei superstiziosa. Beh, sai, frequentando l'Africa, un po' di sana superstizione aiuta a leggere i segni che ci manda il destino. E tu ci riesci a leggere questi segni? Se mi guardo indietro, riesco ad individuarne qualcuno. Le mie scelte, come quella di imparare l'arabo, mi hanno portato a fare quello che desideravo, la giornalista. Fin da ragazzina ho sempre avuto la fissa di fare qualcosa che fosse utile a tutti e sono convinta che il giornalismo può fare questo. E così tutto si è incastrato come in un puzzle. Ogni volta che si inseriva un pezzo nuovo nella mia vita, c'era una svolta che mi portava nella direzione che desideravo. È strano, ma sembrava che tutto fosse già scritto per me. Avevo capito che un forte desiderio poteva esaudirsi, che la tenacia e la volontà di perseguire quel desiderio lasciavano segni che erano già lì. Bastava coglierli. E sei sbarcata qua giù in Somalia? Eh già. È un paese difficile. L'ideale per il mio lavoro. Allora, questo scialle come mi sta? Una vera donna somala. A parte la pelle. Dove l'hai trovato? Là fuori. Cosa c'è là fuori? Fuori c'è la guerra. E carestie. Non piove da anni e la gente muore di fame. Soprattutto i bambini. Qui si soffre e si muore. È un paese dimenticato da Dio, dove non c'è speranza, non c'è futuro. Come ti chiami? Fadima. Fadima. Ascolta, c'è sempre una speranza. Non qui. Come puoi dirlo? Perché lo vedo. Io leggo nel tempo. È un dono. Ma potresti sbagliarti. Ogni traccia è chiara e i segni non sbagliano. Le cose possono cambiare. Niente può mutare ciò che è scritto. L'hai ammesso anche tu. Bisogna aver fede. In cosa? Negli dèi? Negli uomini? Tutti ci hanno lasciati soli. Bisogna aver fede in noi stessi. prendere coscienza, lottare per trasformare le cose. Non credo alla magia. Ma qui siamo in Africa. Questa terra è impregnata di magia. Le nostre tradizioni sono antiche, ma hanno radici profonde. Non è così semplice. Per voi occidentali tutto è facile. Venite qui pensando di trasformare la nostra cultura, di aiutare il nostro popolo cambiando il nostro modo di pensare. Ma non fate che peggiorare le cose. Andate via di qui, perché la gente finirà per odiarvi. Non si può ottenere la pace con altra guerra. Non ci sarà nessun cambiamento per noi, nessun mondo migliore. Continueremo a piangere i nostri morti. Io sono qui per far conoscere al mondo quello che succede in Somalia e fare in modo che le cose possano cambiare. Nella tua voce sento quelle della mia gente, ma non basterà ridare speranza a questa terra. Ah, certo, non basterà, ma io sono convinta che se le donne si unissero, non so, sì, formassero dei comitati, delle organizzazioni pacifiste e manifestassero contro gli uomini che vogliono la guerra, forse... Qui i bambini giocano alla guerra, come fanno tutti i bambini del mondo. Solo che il gioco è reale, le armi sono vere. Sono i padri che mettono nelle mani dei propri figli questi strumenti di morte. E alle vostre bambine... cosa fanno? Chiamano la nostra terra il paese delle donne cucite. Lo sapevi? Nascere femmine in Africa è un maleficio, condannata a subire vergogna e insulti. Le madri mostrano orgoglioso il figlio maschio, mentre la figlia femmina la si nasconde per evitare le male lingue. Le donne sono private dei diritti umani, umiliate, strumentalizzate, mutilate e messe al bando. Nel corso della loro vita proveranno vergogna, abuso e senso di inferiorità. La circoncisione faraonica è una delle tante violenze in cui le donne sono quotidianamente sottoposte. Da dove abbiamo preso questa pratica? Quale legge permette ciò? I libri sacri dicono di non fare questo, è un peccato agli occhi di Dio. Le donne che hanno subito tale mutilazione difficilmente riescono a raccogliere la forza per uscire allo scoperto e raccontare ciò che hanno subito. L'hai subita anche tu, vero? Sì. Mio padre e mia madre hanno insistito. Fa parte del sistema. Mi dicevano: l'infibulazione ti fa donna, si deve fare per rendere il corpo della donna più bello e puro. Inoltre gli uomini rifiuterebbero di prendere in sposa una donna non infibulata. Me ne ricordo sempre. Soffrivo, ma pensavo: finalmente oggi sono diventata donna. Prima non ero niente. Avevo 4 o 5 anni e ancora non andavo a scuola. Tutto è cominciato come una festa. Ci hanno lusingate, carezzate, abbiamo ricevuto abiti nuovi, ci hanno dipinto il volto. Poi arrivò il mio turno. Mi misero sul banco del macello, come una bestia. Tremavo, avevo paura. Poi il taglio. La vista del sangue. Come dimenticarlo? Non smettevo di urlare. Mi legarono i polsi e le caviglie, come una bestia. Mi aggrappavo alla donna che mi teneva. Ho sentito la lama, una lametta da barba. Poi un impasto appiccicoso, torlo d'ove e farina per fermare l'emorragia. Mi sembrava di essere massacrata. Di ciò me ne rendevo conto, ma non potevo farci nulla. Un lenzuolo tagliato a strisce mi immobilizzò per giorni, dalla vita alle ginocchia. Avevo vomito, dolori e difficoltà ad urinare. Dopo 7 giorni stetti meglio, ma dentro quella lametta toglie tutto, anche l'anima. In alcuni villaggi le ragazze vengono ricucite con le spine e quando si sposano molto spesso il marito non riesce ad aprire, e per farlo allora usa il coltello e la donna può contrarre il tetano. Perché mi ha creato Dio se gli uomini possono fare questo? La cultura non deve essere sofferenza. Bisogna sensibilizzare le madri, promuovendo l'idea che questa deve essere una scelta, non un'imposizione. Credo che bisogna procedere per gradi, per rispettare la natura storica e culturale dell'infibulazione, magari, sì, magari con un rito simbolico. Certo, il passato non si può cancellare, ma si può tentare di cambiare il futuro, perché il vostro grido di dolore diventi grido di speranza per tutte le donne a cui è stato negato il diritto alla vita, il diritto a non subire torture, il diritto a modificare costumi e tradizioni che violano i diritti umani. Semplicemente il diritto di esistere per ciò che siamo. Donne. Fadima, io potrei aiutarvi. Qui in Somalia non amano che qualcuno tocchi le loro tradizioni, specialmente se a farlo è una donna, e soprattutto una donna bianca. È pericoloso. È tabù. Vuoi conoscere il tuo futuro? Te l'ho detto. Non credo alla magia. Che cosa fai? No. Ma che fai? È solo un gioco. Non è un gioco. Sei un pazzo. Non era questo il patto. Rompere la catena porta male, dovresti saperlo. Hai infranto le regole. Le regole vengono create per essere infrante. Già, tu questo lo sai bene, vero? Anche tu mi pare un no. Io infrango le regole solo quando è necessario. Sei patetico. Tam tam tam tam tu, tam tam tam tam tu, tam tam tam tam tu, tam tam tam tam tu, tam tam tam tam tu, tam tam tam tam tu, tam tam tu, per rilanciare la terra, per risvegliare questa Africa addormentata, per la creazione di un'Africa nuova. Pianta, tam tam tam tam tu, tam tam tam. Basta! Ho fatto solo quello che sentivo giusto. Dovevi seguire il corso delle cose. Sto facendo la mia parte ora. Avevamo detto niente iniziative personali, ricordi? Mi stuzzicava andare al soggetto. Non cambierà mai. Se n'è andata. Nel nulla. Ma là fuori c'è la guerra. Il nulla, solo il nulla. Cosa vuoi dire? Deserto, per chilometri e chilometri. Solo sabbia. Almeno so dove sono. C'è una strada nel deserto, immersa nelle sabbie, una linea lunga e nera. Qualcuno dice che finisce nel nulla. L'Africa. E come ci sono arrivata? Dove? Nel deserto. Forse anche tu vieni dal nulla. Tutti veniamo dal nulla per poi tornarci. Non mi pare il caso di fare della filosofia. Perché? Perché mi trovo qui. Perché ti sei persa e io ti ho trovata. No, non mi quadra. C'è ancora qualcosa che non mi quadra. Certo, non mi dici la verità. E qual è la verità? Tu la sai? Io la so. Chi è che la sa? È tutta una messa in scena. Ognuno ha la sua. E la tua? Qual è la tua verità? E la difende fino alla fine. Ma che diavolo sei? Non sei d'accordo? Tu come la vedi? Ho il diritto di sapere. La verità? Sì. E chi può dirlo dove si nasconde la verità? Chi sei? Non posso dirlo. Parla! Non posso rivelarmi, mi è proibito. Proibito da chi? Dal governo? Sei dei servizi segreti. Più su. Dalla mafia allora. Dalle multinazionali. Dai signori della guerra. Dai politici corrotti. Da chi? Da qualcuno un po' più in alto. Chi? E smettila di urlare. Oddio. Scusa. Bel caratterino. Quello che si dice una donna energica. Certo che ne devi avere di nemici tu. Ci mancavano giusto i fondamentalisti. Sebbene anche lì. Ho fatto un po' di domande in giro. Sì, perché questo è il tuo mestiere, svelare verità nascoste per il diritto di cronaca, all'equità, all'uguaglianza. Perché sono trattenuta qui contro la mia volontà? Nessuno ti trattiene. Vuoi dire che sono libera di andarmene? Sei libera di farlo quando vuoi. Beh, voglio farlo. Ora. Accomodati. E buona passeggiata, se ci riesci. Cosa c'è laggiù? Te l'ho detto. Il nulla, solo sabbia, sabbia a perdita d'occhio, per miglia e miglia. E una strada immersa nel deserto, tra le sabbie. la Carò è posato. È qui che siamo. Dove tutto è cominciato. Perché non riesco ad andarmene. Lo vorrei, ma non posso. È come se una forza sconosciuta mi invitasse a rimanere qui, dentro di me. Nel più profondo di te. Perché è là che devi cercare, per svelare ciò che è più nascosto. È per questo che sono qui. Sei arrivata qui sconvolta e sola. Ti sei accoccolata in un angolo senza parlare. Forse per dimenticare. Probabilmente per riposare. Questo l'ho già sentito. No, è impossibile. Quando mi sono risvegliata, sono le prime parole che mi ha detto Fadime. Che cosa? Identiche. Ora mi frega anche le battute. Perché ce l'hai tanto con lei? È una storia antica, ma in fondo le voglio bene. Non potrei esistere senza di lei. La conosci da tanto? Ma, da tanto. Direi da sempre. È che avere diverbi con lei è inevitabile. È difficile da controllare, fuori controllo. Però alla fine fa sempre la sua parte, che le piace improvvisare tutto qui. Ora devo andare. Vengo con te. No, non ancora. E quando? Quando sarà il momento. Che sarà? Quando avrai compreso il motivo per cui sei qui. Devo farlo da sola? Dammi almeno un indizio, qualcosa da cui poter cominciare. Comincia da qui, da questo luogo. Dalla Garò e Posaso. Mi pare un buon punto di partenza per arrivare alla meta. Cerca i segni. I segni? Solo tu puoi dare una risposta a tutto questo. Dunque. Ecco qui. Navi Scifco, strada Garò e Bosaso, ingegner Mugne. Che fine hanno fatto i 1400 miliardi della cooperazione? Eh già. Lettera indirizzata agli italiani di Mogadiscio. Eh certo, così titolava Beldeca, giornale di lingua somala di tendenza filo Aidid. Ha un articolo di fuoco che spiegava con nomi e particolari cosa ne pensava l'ex ministro dell'industria somala dei rapporti tra l'Italia e il suo paese. Poi pesanti accuse contro i politici italiani, da Craxi a De Michelis, passando anche per il capo dei fondi aiuti italiano, Francesco Forte. Il ministro si chiedeva dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia. Il silenzio è assordante quando si toccano affari di Stato e multinazionali del crimine legalizzato. La Scifco è la compagnia statale di pesca donata dall'Italia nell'ambito della cooperazione, beh, direi mala cooperazione, al governo somalo, ormai inesistente. Ha un padrone, un ingegnere somalo che l'Italia la conosce molto bene, Omar Said Mugne. Sei navi, di cui quattro sono state già consegnate. E le altre due? Solo voci, confidenze, fantasmi apparsi per qualche ora. Ma quei nomi tornano sempre. Scifco Mugne. E quello di una nave in particolare, la Farax Omar. Ilaria? Sì. Che succede in Italia? C'era molto bravo. Ilaria, a Roma mi avevano detto che la puntualità non è il tuo forte. Giovanna, immagino, eh? Sì. Mi ha detto che ti muovi a tuo agio qui in Jugoslavia. Beh, conosco abbastanza bene la situazione. Senti, quanto tempo ci vuole per arrivare a Spalato? Perché Spalato? Andiamo a Belgrado, no? Dovrei controllare una cosa al porto. Beh, Spalato è piena di soldati e poi ci saranno almeno 15 ore in più di macchina. Deve essere davvero importante. Eh beh, sì, è importante. Sto seguendo un'inchiesta. Ah, spiegati allora. Sto indagando su un traffico d'armi destinato alla Somalia. Per farlo utilizzano delle navi che l'Italia ha donato alla Somalia nell'ambito della cooperazione e sembrerebbe che su quelle navi, oltre alle armi, vengono trasportate scorie e rifiuti tossici. Destinati anche quelli alla Somalia, immagino, belle merda. Oh, già. Questa flotta è proprietà di una società italiana, la Scifco, gestita però da un ingegnere somalo, un certo Mugne, molto ben ammanicato sia in Italia che in Somalia. Un gran figlio di puttana. Ho saputo da fonti certe che a Spalato è ancorata la Pharax Omar, una delle navi pronte a partire. Molto probabilmente viene utilizzata per i traffici sporchi. E come fai a esserne così sicura? Beh, diciamo che mi è capitato tra le mani la copia di un fax. Sembrerebbe che in ogni porto ci sia un agente dell'Oest di Londra che per ragioni assicurative deve registrare tutti i movimenti della nave. Djibouti, Zanzibar, Beirut, Abdam, Port Said, Suez e poi di nuovo Beirut. Ha girato parecchio, eh? Dal marzo del 92 è stata lontana da Gaeta per più di un anno. A Tripoli non c'è un agente dell'Oest, ma io so per certo che è stata anche lì. Strano, no? Per una nave che dovrebbe fare la spola tra Gaeta e la Somalia. Va bene allora, andiamo a Spalato. Mi raccomando, se ci dovessero fermare ad un posto di blocco, non scendere dalla macchina. E se ti facessero qualche domanda, noi andiamo a Dubrovnik e non a Belgrado, ok? Sai, qui ormai i soldati sono come dei banditi. Tirati un po' sui capelli. Ecco, così, sì. Troppo carina, capito? Mai con i capelli sciolti. Se dovessimo, insomma, incontrarne qualcuno, ecco, rimani così e lascia parlare me. Va bene. Portare le notizie fino alla morte. Non fermarsi di fronte a nulla pur di testimoniare una guerra che troppe volte è stata dimenticata. Reporter di una guerra senza un fronte chiaro. Una differenza netta tra buoni e cattivi. Sono ormai 60 i giornalisti, fotografi e teleoperatori morti in 2 anni e mezzo di conflitto in Bosnia. Eppure si continua a partire. Per qualcuno si tratta di una missione, non è più un semplice mestiere. Tante sono state le polemiche contro il ruolo della stampa nel conflitto, ma l'occhio della telecamera è stato spesso l'unico modo di testimoniare. Sei brava, scrivi bene, eh? E il girato è molto buono. A buon rendere allora, e ricordati di me quando dovrai tornare al caldo. Ok, promesso. Ma abbiamo la certezza che non lo venderà qualcun altro? Beh, sai, noi siamo i primi. È tornato appena ieri da Spalato, ma... Quanto gli hai dato? Solo una dozzina di cassette vergini. È un vecchio amico, quasi. Come quasi? Con quello che succede qui non si riconoscono più neanche i fratelli. Lui è serbo, io sloveno. È una vecchia storia. A presto, allora. Contaci. Ciao. Gli articoli sulla mia scrivania, grazie. Ciao, Ilaria. Oi, allora, cosa mi dici? Che ti dico? Ti dico che mi sa che per questa volta passiamo con la Somalia. Copriremo le notizie con quelle che ci danno. Come sarebbe? Sì, Ilaria, mi sa che appunto passiamo, non c'è niente da fare. Ma è assurdo, con tutta la fatica che abbiamo fatto fin dall'inizio, adesso che so come muovermi. Ma perché, scusa, non te ne torni a Belgrado? C'è anche quella tua idea sul Kosovo. Ma io devo tornare in Somalia. Ma che ti frega? Quante volte ci sei già stata in Somalia? Appunto. Voglio finire un lavoro che ho cominciato. Senti, Ilaria, è inutile che ce la raccontiamo, eh? Specialmente adesso che c'è tutto quel casino sui fondi gonfiati. E che cosa c'entra con la Somalia? Ma come che cosa c'entra? C'entra perché costa. E io i soldi da darteli non ce li ho. Posso arrivare al massimo, e dico massimo, 3 milioni di lire di rimborso spese, poi. 3 milioni per 10 giorni. Senti, è tutto quello che ci daranno. E poi non ci sono neanche operatori disponibili. Ho capito. Mi dispiace davvero, io lo so quanto ci tenevi a tutta questa storia. Purtroppo le guerre non mancano mai, no? Aspetta, va bene. Va bene cosa? Dammi quei 3 milioni. Non fare alzate di testa, per favore, eh? Niente alzate di testa. Tu dammi quei soldi, poi quello che ci faccio sono affari miei. Questa volta ti porto dalla Somalia qualcosa di veramente importante. Sei sicura di farcela con 3 milioni? Fidati. Va bene, farò il possibile per farti avere qualcosa di più, ma non ti assicuro niente con l'aria che tira. Sì, sì, lo so. Ah, resta comunque il problema dell'operatore. Ci penso io all'operatore. Ci pensi tu? Sì. Vabbè, ne parliamo. Guarda i segni. Le posso offrire del tè? Sì, grazie. Guarda i segni. Signor Costa, mi spiega perché ha voluto un'intervista vera? E credo che lei ancora non abbia capito con chi ha a che fare. La sua presenza qui deve rivestire un carattere ufficiale. Lei è una giornalista ed io un ex diplomatico, se preferisce un vecchio esperto di cose africane. Mi ha cercato per telefono e ci siamo incontrati. E se qualcuno dovesse ascoltare la nostra conversazione o l'intervista che lui ha appena rilasciato, non ci troverebbe niente di strano. Ho capito, è una questione di prudenza. Beh, se fossi davvero prudente non mi sarei prestato a questa farsa. La verità, vede, è che ho avuto modo di seguire il suo lavoro in Somalia. Beh, ho accettato di riceverla perché lei mi piace, come giornalista intendo. Comunque adesso le telecamere sono spente. Allora, che cosa mi dice? Di stare attenta. Questa inchiesta è molto pericolosa. Lei vuole tornare in Somalia, vero? Sì, dovrei partire domani. Allora spero che non perderà l'occasione di visitare Bosaso. Le spiagge di questa stagione sono magnifiche da quelle parti. Ci avevo già pensato, non perderò l'occasione. Un piccolo favore. Se posso, volentieri. Ho una cara amica a Mogadiscio. Le consegni questa lettera da parte mia. Accetti un consiglio. Se faccio un giro in macchina sulla Garoa e Bosaso, una strada nel deserto immersa nelle sabbie, c'è qualcosa che va osservata a fondo. Guarda i segni. I segni. Fadima? Vieni, sediamoci. E tieni. E per me? Eh sì, te la manda l'ambasciatore Costa. Come vi conoscete? Lavorava nel suo ufficio ad Asmara. Posso farti qualche domanda? Chiedi e io rispondo. Senti, ho saputo che negli anni passati delle società italiane, d'accordo con qualcuno di qui, hanno organizzato un traffico. Traffico? Che traffico? Un trasporto di rifiuti, materiale di scarto, tossico, proveniente dalle industrie chimiche europee. Sì, ho capito. E sembrerebbe che durante la costruzione della strada Garoe-Bosaso... Sì, conosco questa storia. Tutti la sanno qui. E cosa sanno? Praticamente, quando facevano la strada, quelli che lavoravano lì hanno detto che sotto la terra hanno messo quei bidoni per nasconderli. Sì, ma in che punto esattamente? Sotto la strada. E poi hanno coperto. Ma anche i soldati lo sapevano. Come facevano a saperlo? Io non so come, ma quando andavano da quella parte dicevano che i soldati si mettevano i vestiti bianchi perché era pericoloso camminare lì. Senti Fadima, tu la faresti un'intervista filmata per la televisione italiana? No, non è possibile. Perché non è possibile? Perché ho paura. La vita vale poco a Mogadiscio. Leggi i segni. Allora, com'è andata? Non vuole farsi riprendere, però mi ha dato un buon contatto per Bosaso. Va bene allora, no? Ilaria! Oh. Non sapevo che tu fossi a Mogadiscio. Qualcosa sfugge al tuo controllo. Allora, che cosa è successo a Mogadiscio? Ah, Mogadiscio, Mogadiscio. Ho degli ospiti a casa mia, altri giornalisti, eh? E se ti fa piacere sei invitata anche tu. No, grazie. Sono qui col mio nuovo operatore. Come privarlo di un comodo albergo somalo? Miran Rovati, Giancarlo Marocchino. Piacere. Piacere, piacere. Piacere, piacere. Quando ti troverai in qualche bettola a mangiare porcherie, ricordati di ringraziare lei, con cuoco a casa mia, che neanche al Quirinale se lo ritrovano. Giancarlo, scusa, hai un minuto? Ah, per te sempre, dimmi. Senti, tu mi potresti confermare una storiella che circola su una cinquantina di prostitute trasportate a Nairobi su un aereo speciale. Ma sta parlando con me? Ma non ne so niente io, eh? Davvero? Eppure io so di 50 ragazze somale in uso alla forza di pace. Così, per passare il tempo. Poverini, sono giovani, lontani da casa, un po' di compagnia. In fondo, per quelle poveracce, qualche dollaro in più vuol dire mangiare, quindi... Ilaria, Ilaria, ma questa è una storia assurda, no? Come quelle storie che inziravano sulle violenze contro i civili. Ma dicono, ma dovresti conoscere ormai i somali. Sono capaci di inventarsi qualunque fesseria, eh? Però la trovo una storia divertente. Ah, la trovi divertente? Eh beh, sì, dai, nella media di ciò che succede qua in Somalia la trovo molto divertente. Beh, scusate pure, ma io ora ho da fare. Divertitevi pure con le vostre... vostre barzellette. Si vediamo, si vediamo. Leggi i segni. Cosa diceva riguardo ai segni? Niente. Ma lo conosci bene quel tipo? Marocchino, hai detto? Sì, un tipo interessante, no? Marocchino è una sorta di passaggio obbligato qui in Somalia. È coinvolto in tutti gli affari italiani, appunto qui in questa terra. Però credo che sia coinvolto in affari anche poco chiari. E voleva che andassimo a casa sua. Hai capito? Voleva dire non avere più nessuna autonomia. Marocchino ha una specie di esercito personale, più di 400 uomini. Fornisce mezzi, organizza le scorte, gli spostamenti. Un vero boss. Però bisogna dargli atto che durante la guerra civile è stato di molto aiuto per gli italiani che sono rimasti qui a Mogadiscio. Insomma, un uomo per tutte le stagioni, a parte qui che è sempre estate, fa un caldo. Volevi venire al caldo? Già. Senti, ora che si fa? Ma ci sarebbe una conferenza stampa col generale Fiore, ma non mi aspetto niente di interessante. Ma noi ci andiamo o no? Tu che dici? E che ne so, io sono in Somalia da meno di 24 ore, sei tu il capo. Ah, oh, sì, stai fresco. E che cazzo è questo Fiore? Sicuramente uno che non crea problemi con gli americani. Ah, e che senso hai? 203. 204, beh, forse è un segno. Dobbiamo montare il servizio su Ali Mahdi. Ah, allora fa culo Fiore. Ma sì, domani. Domani. C'erano i segni? I segni c'erano. Li avranno accolti? Forse. Ma questo non potrà cambiare le cose? No, ma farà tremare i poteri occulti. Li costringerà prima o poi a svelare la verità. I colpevoli verranno puniti e il mondo prenderà il giusto verso delle cose. E tutto tornerà a posto. Ci credi davvero? No, è la solita solfa del bene e del male, così per dare un po' di colore. Quasi l'alba. Il sole li accecherà? Sì, proprio quando saranno convinti che la meta è vicina. Ma sarà solo un miraggio. È facile qua nel deserto. I loro nemici ne approfitteranno. È inevitabile. E noi? Andremo avanti, fino in fondo. Farò la mia parte. Ma senza strafare. Sai, siamo a marzo, è primavera. Ah sì? Non si direbbe. Fa un caldo. Ma cosa pretendi? Siamo nel deserto. Su una fottuta strada bollente. Ci sarà speranza. C'è sempre speranza. Ali Mahdi, presidente ad interim della Somalia, è stato uno dei primi fautori dell'intervento italiano nel paese. Ali Mahdi è un uomo d'affari, proprietario di un albergo oggi in rovina. Vive nella zona nord di Mogadiscio. Va molto fiero del fatto che in quest'area regni la pace e che la vita e l'economia stiano riprendendo. Ma ultimamente il suo atteggiamento nei confronti degli italiani sembra essere cambiato. Ali Mahdi sostiene che l'Italia abbia preso decisioni unilaterali, non collegate con la politica delle Nazioni Unite, e che abbia negoziato con miliziani di Hadid, forse addirittura pagandoli, invece di usare le maniere forti. Bello, no? Sì, sì, non c'è male, ma cerchiamo di finire, ti prego, perché devo telefonare a mio figlio. Sai, stanotte l'ho sognato. Piangeva. E poi mi sorrideva. Vabbè, i bambini. Sarà un segno. Stiamo finalmente percorrendo la Garoy Bosaso. Miran è seduto accanto all'autista. Mi parla, ma non ascolto. Fa caldo. Il riverbero dei raggi del sole sul finestrino è così fastidioso. Ci costringe a portare occhiali con lenti molto scure. E i miei occhi sono così delicati. Fanno ancora fatica a guardare tutto questo dolore. Non vogliono proprio abituarsi alla sofferenza. I miei occhi hanno sempre cercato di vedere oltre queste sabbie, oltre questa polvere che si alza improvvisa e ti offusca la vista. Ora il mio sguardo è lontano. Sta cercando qualcosa. Indizi. Segni. La mia mente è lucida, pronta a cogliere l'ultimo tassello di questa complessa indagine. La radio suona una canzone del posto che non capisco. Miran continua a parlarmi, ma non ascolto. L'autista tossisce e ride. Welcome to Bosaso! Benvenuti a Bosaso! Mi appare questa scritta su un palazzo bianco in rovina. Sono un passo dalla verità. Lo sento. Tutto questo mi elettrizza. Questo è il porto di Bosaso, un centro di vitale importanza per le regioni nord-orientali della Somalia. Qui approdano le navi provenienti dalla penisola arabica, che trasportano materiale edile per la costruzione di nuove banchine. Buongiorno, signor Bogor. Buongiorno. E secondo lei, di che cosa ci sarebbe bisogno, se potesse chiedere? Beh, abbiamo risposto a questa domanda almeno un migliaio di volte. Beh, non a me. Beh, Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di tutto, dalle medicine alla manutenzione delle strade, dall'ampliamento del piccolo porto costruito dagli italiani, e di tutto praticamente, sì. E secondo lei, come mai l'attenzione internazionale si è soffermata su Mogadiscio e ha, diciamo, si è praticamente dimenticato la gran parte della Somalia, specialmente queste regioni? Beh, perché i mass media mondiali hanno bisogno di cose brutali. A Mogadiscio accadono delle cose brutali. Senta, parlano di questa, sì, di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che sono di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui? Lui solo. Lui con altre persone. Beh, io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, è successo che durante lo collasso lui era capo di questa flotta, un ente nazionale che si chiama Shifco, e questa era praticamente una proprietà di Siad Barre, l'ex tiranno deposto. E lui gli faceva da amministratore. Quando è venuto lo collasso, lui se l'è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, a Dar es Salaam, e se l'è squagliata, capito? Se l'è squagliata con le navi in Italia, via! Senta, sa il nome della società? Sì, il nome? No, lei lo conosce, no? No, io no. Comunque lo trovi. Se mi dà una mano lo trovo. Ma deve, che deve fare? Lei deve fare ricerche, deve, ecco che deve fare, deve guadagnarsi il pane, no? Non vuole darmi una mano? No, non posso. Sa, queste società hanno, dovunque hanno dei lacchè. Senta, so che una di queste navi, la Farax Omar, è ancorata qui, nel porto di Bosaso. Ma sì, è che io l'ho detto. Non è ancorata qui? No, è americana, eh? vede che se lei vuole, sa chiedere informazioni. No, no, la nave non è ancorata qui, è lontana dal porto, lontana, largo, non la vogliamo qui. Cosa c'è su quella nave che non volete qui? È per via del suo carico? So che la nave è stata praticamente sequestrata e che l'equipaggio è costretto a rimanere a bordo. Non li facciamo scendere a terra perché in questo territorio al momento c'è l'ukulera, come lei sa. Ma veramente io ho sentito che avete sequestrato la nave perché non vi ha chiesto la licenza di pesca. No, no, noi non l'abbiamo sequestrata. La nave è in Agaria, a largo, e quando sarà passato l'ukulera rientrerà in porto. E dov'è la nave? La possiamo vedere? E come potete vedere? Perché lei viene da sismi? No, e perché deve vedere? Chiedi informazioni e basta, no? Se non vedo, non credo. Se non vede, non crede. Beh, allora usi i satellite. Va bene. E senta, un'ultima domanda. Non c'è bisogno che mi dica di sì. A me basta un potrebbe. Berechina, lei. Secondo lei, è possibile che su quella nave ci sia un carico di armi provenienti dalla Russia? Sì, potrebbe. Grazie. Abbiamo finito. Signorina, lei deve stare attenta, sa? È troppo curiosa. Sta scherzando col fuoco di cose che non si può parlare. Gli italiani sono diventati tutti curiosi come lei. A questo prima nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso, no? No, no, adesso il nostro sport preferito è quello di fare processi. Adesso è diverso, non è più come 5-6 anni fa. Ah, sì? Allora l'Italia si è rinnovata. Via, rottamazione. Meno male. E allora mandateci i rinnovatori, così almeno ci crediamo. Grazie. Arrivederci. Una ripresa fissa. Un totale con tutta la strada che si perde. Signori del pubblico, ecco per darvi un esempio di quanto sia stato utile spendere centinaia di miliardi della cooperazione italiana qui in Somalia. Questa è la Garoe Bosaso. Una strada molto usata, indispensabile. Peccato che non ci passa mai nessuno. Ma almeno è servita a coprire ogni forma di porcherie tossiche e radioattive che l'Occidente ha la brutta abitudine di affidare a questi disgraziati del terzo mondo. Tutto questo con la complicità di politici, militari, servizi segreti, faccendieri italiani e somali. E questi morti di fame ci comprano anche le armi. Ma allora, ma lasciamogli continuare le loro piccole guerre. In fondo non danno fastidio a nessuno. Che cosa fai? Faccio le prove per il servizio di questa sera. Certo, cambierà la forma, ma esattamente quello con intenzione di dire, con nomi e cognomi. Questa storia è troppo grossa, ma io ora so e ho le prove. È davvero utile, non c'è che dire. Per i cammelli dei somali forse, ma per nascondere quei container sicuramente. Sai, vorrei conoscere il coglione che l'ha progettata. Di certo non dorme tranquillo. E come fa a dormire tranquillo con tutto lo schifo che c'è qua sotto? Sai, Laria, neanch'io riesco a dormire tranquillo. Ma che significa? Non capisco. Dove pensi di arrivare? Dove penso di arrivare? Non lo so, vedremo. Ilaria, sai, qui non è come la guerra. La guerra in fondo è una cosa semplice. O si vive o si muore. Devi soltanto evitare un colpo in testa. Questi sono affari sporchi e non c'è niente di peggio. Lo so. No, non saprai mai chi c'è dietro a tutto questo. Miran. Che? Tranquillo. E grazie. Scusami, Ilaria, sai, sono un po' nervoso. Che avventura, eh? Ah, già. E pensare che 2 anni fa credevo che tutto fosse finito. Mia moglie, mio figlio, il lavoro, tutto finito così, d'un colpo. Una stupida malattia, un tumore. E invece ce l'ho fatta e adesso è tutto gratis. Beh, allora siamo quasi arrivati alla fine. Bisogna vedere cosa succederà dopo il servizio di questa sera. Sarà un bel colpo, eh? Eh sì, possiamo dire di avere uno scoop. Sai, ho lavorato bene con te. Ma che fai? Diventi rossa. Ma no, no, mi sono scottata. E anch'io, porca puttana, è di brutto, sai. Ma tra qualche giorno questa vita ci mancherà. Te l'avevo detto, il mal d'Africa è contagioso. Eh sì, adesso ce l'ho anch'io, la mia Africa. Beh, adesso che si fa? Faccio una telefonata a Roma. Ah, poi voglio cercare il responsabile dell'ANSA, che è qui a Mogadiscio. Voglio parlare con lui prima di mandare il servizio stasera. Tu che fai? Vieni con me? No, no, sono un po' stanco, ho bisogno di riposare un po'. E poi bisogna fare i bagagli, no? Domani si parte. Ah, già. E là, sai, stanotte ho sognato ancora mio figlio. Sì, piangeva. E c'era anche la mamma con lui. Che però non parlava, guardava nel vuoto. Forse ricordava qualcuno, chissà cos'altro vedeva. Poi il bambino a un certo punto si rivolge alla mamma e gli fa: mamma, sono stato soltanto 8 anni con lui, troppo poco. Allora la mamma lo accarezzava e tutte e due sorridevano. Ma sarà un segno? Ma no, stai sereno, lo rivedrai presto. Devo andare ora a parlare con lui, dirgli che tutto andrà bene. Ma certo, andrà tutto bene. Ilaria, ma perché non vuoi leggere i segni? Cosa vuoi dire? Quali segni? Perché sei così cieca? Anche tu con questi segni, come tutti gli altri. Ma possibile che tu non te ne sia mai accorta, eh? Non ho la mia telecamera, non l'ho mai avuta. Da quando è iniziata questa storia non l'ho mai portata con me. Non ti pare strano? Per me è come una droga, io me la porto anche nel cesso. Perché non posso farne a meno. È qualcosa che mi permette di fissare il mondo, fissarlo per sempre. La gente è sofferente, lo sguardo perso di un bambino, il pianto di una donna, lo sguardo disperato degli anziani, la paura, la rabbia, la rassegnazione. Tornavo a casa stanco e disperato, distrutto da quelle esperienze, ma andavo avanti. E tutto questo con la mia telecamera, perché non posso fare il mio lavoro senza la mia telecamera, come tu non puoi farlo senza la tua penna e i tuoi taccuini, no? E chissà dove cazzo è andata a finire. Probabilmente è sparita, sì, come tutto il mio materiale. Forse te l'hanno rubata. Sì, è probabile. Come le mie cassette e i tuoi taccuini. Perché fai finta di non capire. Cosa dovrei capire? Io non voglio, non posso, non è giusto, non è giusto. Sta giù, Ilaria, sta giù! No, per favore, no! Siamo andati 1-4, ci hanno sparato, li hanno proprio mitragliati. Hanno finito 2 della scorta e l'autista, diciamo, non è stato ferito e loro hanno preso 3-4 colpi nella testa. Non è stata una rapina, è solo stato così. Si vede che sono andati in certi posti che non dovevano andare. Io penso che c'è una spiegazione. Politica anche? Non saprei dire. O è solo questione di... così, tanto per far vedere che si creano incidenti? No, no, no. Questo è un agguato bello e buono. Quindi premeditato? Magari una parolaccia, ma io dico con la testa di cazzo di quel ragazzo che sparava per primo, lei poteva essere ancora in vita, perché lei, secondo me, la rapivano, secondo la mia opinione. E poi abbiamo visto che erano stati uccisi con un colpo alla testa, tutte e due, quindi abbiamo capito che non era uno sbaglio, non era uno scontro a fuoco, non era una pallottola che li aveva colpiti per caso, era stata un'esecuzione e noi l'abbiamo chiamato un assassino, ma di questo si tratta, insomma, di questo noi siamo certi. Non è giusto. Io devo far sentire ancora la mia voce. Voglio parlare alla gente, per la verità, per la giustizia. Noi non siamo più Ilaria. Il nostro compito è finito. Qualcun altro finirà ciò che abbiamo cominciato. Ci hanno tolto la voce. No, Ilaria. Le tue parole vivono ancora. nelle coscienze e nei cuori delle persone che ci ascoltano, persone che vogliono conoscere la verità, che non vogliono dimenticare, per il diritto di esistere di tutti. Nella tua voce c'è la voce della mia gente ed echeggerà per sempre. Pensa che adesso è tutto gratis. Devo chiamare mio figlio, sussurrargli che tutto andrà bene, che sono ancora con lui. Miran, Miran, aspetta. È tutta colpa mia. No, Ilaria. Lui sapeva bene cosa faceva. Ciò che poteva accadere lo aveva messo in conto. Non avere paura. Non si perderà. Lui conosce già la strada. È tornata per te. Ora puoi andare. Ora sei libera. Segui la luce. La luce? Al di là c'è solo luce. Così dicono. Allora, tutta questa messa in scena era per me. Ma tutto questo sarà servito a qualcosa? Hai lasciato orme indelebili sul tuo cammino, che nessuna sabbia potrà mai cancellare. Il vento del deserto porterà lontano le tue parole, e il mondo ascolterà ancora la tua voce. Niente andrà perduto. Grazie. Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Rovatin furono uccisi in Somalia il 20 marzo del 1994 e a tutt'oggi sono ancora ignoti i nomi degli assassini e dei loro mandanti. Ricordiamoci dei morti, ma ricordiamoli vivi.